Friuli nel mondo, ottava trasmissione dedicata agli emigrati all'estero. Minatori di Raibl. Testo di Chino Ermacora. Partecipano alla trasmissione l'Orchestra Sinfonica Udinese diretta da Evi. Operai e operaie di Cave del Predil, Don Pietro Tommasino, parroco del paese. Musiche popolari, musiche originali di Lorenzo Perosi, Oreste Rossi ed Ethel Nogara Felovs. Una leggenda aureola il Monte Re al confine nord-orientale del Friuli. Alboino vi sarebbe apparso come sulla vetta del Matajur, come sulla vetta del Nanos, alla testa dei suoi longobardi. Da ciò il nome favoloso del monte, ricco di giacimenti metalliferi. Un'altra leggenda sfiora il sottostante lago di Raibl, dove una volta si stendeva una pianura e sorgeva un paese, i cui abitanti, arricchitisi con la miniera, avevano smarrito il sentiero della carità. Infatti, la vigilia di un Natale lontano, due poveri viandanti, erano niente meno che San Giuseppe e la Madonna, bussarono alle porte delle case di Raibl chiedendo asilo per la notte. Voci irose li investivano. In giro con questo freddo, vergogna, zingari che non siete altro! E ogni porta si richiudeva ostile. La donna stringeva al seno una creaturina riparandola dal vento diaccio. E dire che a salutare la festa cristiana si diffondevano canti dalla chiesa che ostentava un lussuoso presepe. Quegli uomini avevano il cuore impietrito come la galena e la blenda, da cui estraevano il piombo e lo zinco. Battevano la strada del lucro, quei tristi, ammaliati dalla lucentezza del metallo. Dovevano perciò essere puniti. All'improvviso un formidabile boato squassò la conca di Raibl, squarciò i fianchi dei monti, il paese fu interamente inghiottito da un lago schiumeggiante, in mezzo al quale si scorge ancora l'isoletta che accolse salvi i pellegrini. Ora, a chi percorra la valle, giunge lo scroscio dei torrenti e il frondeggiare dei boschi, misto allo scoppio frequente delle mine. Sopra e sotto il livello del suolo rondano i martelli perforatori. Nei pozzi scendono e salgono uomini e materiali. Le gallerie sembrano un alveare. La fatica dei minatori di Raibl è retaggio di generazioni con punte di maggior sfruttamento nel secolo XVIII. Il complesso minerario odierno, che assorbe oltre 1000 unità lavorative, ha creato un lindo centro civile dotato d'ogni moderna assistenza sociale. Il caratteristico profilo delle cinque punte inquadra le slanciate e solide case che sostituiscono quelle rudimentali del villaggio. Come in tutto il Tarvisiano, l'Italia ha rinnovato volto e spirito al paese. Regna la pace tra gli uomini. A 300 metri sotto il livello zero, squadre di operai sloveni provenienti dal versante di Bretto, attraverso una galleria lunga 5 km, lavorano insieme con squadre di operai italiani e indigeni. Comune la legge della miniera, comune la fede rafforzata dal rischio quotidiano. Nelle gallerie presente l'immagine di Santa Barbara, protettrice dei minatori, e sotto l'immagine spesso un inginocchiatoio, consunto da migliaia di oranti piegati in fervorosa preghiera. Ma ogni anno il 4 dicembre, gran festa nella ricorrenza della Santa, gran festa nella miniera e fuori. Procediamo a stento, confusi alla folla che, infilato l'ingresso, procede nelle gallerie al chiarore delle lampade a mano, delle luci fissate alle volte umide e basse. Sono minatori, tecnici, impiegati, valigiani, tutti ugualmente solleciti di raggiungere la cavità in funzione di chiesa. Aria di catacomba nella sala Laiar, dove sfavilla l'altare e un sacerdote sta già celebrando la messa. Voci, ingrandite dall'eco, invocano la presenza del Signore in quell'antro da inferno dantesco. Thank you. Ecco, il sacerdote rivolge la parola ai fedeli. In raccoglimento, nel cuore di questo monte che sa il vostro sudore, dinanzi all'altare di Santa Barbara, vostra protettrice, offro il divin sacrificio per implorare da Dio e dalla Vergine di Nicomedia protezione ed aiuto per la vostra dura fatica, per suffragare le anime dei minatori caduti vittime del lavoro nelle viscere di queste rocce. Siate sempre uniti nel nome del Signore, nel nome di Santa Barbara, o minatori qui raccolti, provenienti da tre popoli che vicendevolmente fraternizzano nella comune fede cristiana, nel comune quotidiano travaglio. Fate vostra, o minatori, la preghiera. Santa Barbara, fac nos preclare, montes minantes domare. Concedi, o Santa Barbara, a noi, concedi di potere superare felicemente questi monti minacciosi, da cui strappiamo il pane per noi e per i nostri figli, così sia.